Eccoci qui, abbassiamo un pochino i volumi. Ben trovati oggi 18 e 20 minuti di lunedì 5 luglio 2021, Radio Pirata 38 da quel del Sesto Ponte. Piccoli problemini tecnici iniziali, ma siamo qui ad assillarvi come ogni lunedì. Allora ci potete contattare a 351-0913-390 via WhatsApp, oppure andiamo su Facebook, in cui potete trovarci a Cronaca in Borgata, su Twitter e quindi dicevo su Twitter Radio Pirata 38. Andiamo con un po' di musica e poi cominceremo a parlare un pochino di quelli che saranno i temi che andremo ad affrontare quest'oggi. Siete pronte e pronti per mandarci qualche richiesta musicale? Noi lo siamo, pronti ad accoglierla ed in caso ad accettarla. E niente, andiamo con un po' di musica. Radio Pirata 38, dai regà. E allora, eccoci qui, tornati in voce, 18 e 29 minuti di oggi, lunedì 5 luglio 2021, Radio Pirata 38 da quel del Sesto Ponte, 351-0913-390, se ci volete contattare direttamente via WhatsApp per le vostre richieste musicali o per i temi di cui vorreste parlare insieme a noi. E allora, di cosa parleremo oggi? Oggi faremo un po' di gossip, spettegoles. Dopodiché andremo a farci raccontare da voi le vostre esperienze riguardo ai grandi famosi due di picche, che non è la carta con il numero 2, con il simbolo delle picche, ma in realtà sappiamo tutte e tutti che cosa è ricevere o dare un due di picche. Quindi vi invitiamo a scriverci rispetto a quelle che sono state le vostre esperienze, una volta che l'avete dato, una volta che l'avete ricevuto. Andremo a dare poi una triste notizia che ormai spopola per, diciamo così, su tutti quanti i media mainstream, e non per voce, per mezzo di Sergio Iapino, che ci informa della morte della nostra cara Raffaellona nazionale. Dopodiché continueremo con una parte un pochino più seria, tematica. Continueremo a parlare degli aggiornamenti in merito alla gira zapatista e andremo ad affrontare alcuni passaggi del manifesto di responsabilità per il buon vivir, il cammino e l'autocura collettivi. Andremo quindi ad affrontare come e quali sostanze magari alcoliche potrebbero in caso essere evitate, ma non andiamo ad aggiungere altro perché non vi vogliamo svelare tutti i misteri che vi vogliamo mantenere un po' in testa al momento. E quindi niente, Radio Pirata 38 351-0913-390 18 e 32, siamo qui ad attendervi. Fateci un trillino, fateci sapere se si sente bene, se volete dirci qualche cosa, qualsiasi cosa, siamo qui ad ascoltarvi. Dai DJ. We'll be right back. andiamo a salutare Rata, che da quel di Amsterdam, Olanda, cioè, ci sta scrivendo e ci saluta. Un bacio grandissimo a te, cara. Allora, entriamo nel vivo, cominciamo a farvi conoscere le esperienze di questi due tipi che dati o ricevuti. Ci abbiamo Vale che ci scrive che per lei il due tipi è più facile riceverli che darli, e però l'ultimo dice che ha ricevuto è perché ha attaccato il pippone, almeno così pensa. E c'è sta tutta, no? Può essere pure. Accannali, dai Vale, accannali! Don't E rieccoci qui, sempre Radio Pirata 38, 18 e 48 di lunedì 5 luglio 2021. Entriamo nel vivo e cominciamo a fare un pochino di spettaculass. Il primo con cui penso, ed è doveroso dover iniziare, è proprio quello riguardo a Raffaella Carrà. È morta Raffaella Carrà, aveva 78 anni, il mondo dello spettacolo in lutto piange la più grande di tutti, ci informa Sergio Iapino, mezzo stampa della morte avvenuta oggi alle 16:20. È stata purtroppo annientata da una malattia che da qualche tempo l'aveva colpita, e io penso che a questo punto, insomma, quale miglior maniera di poter ricordare la Raffaellona nazionale se non magari andandole anche a dedicare una traccia, che se volessimo rimanere anche in tema di, tu hai qualche idea, di due dei picchi, potremmo andare a lanciare magari nei prossimi minuti una sua delle più famose canzoni, A far l'amore comincia tu. Vediamo un attimino se qualcuno e qualcuna ci vuole deliziare di qualche richiesta al 351-09-13-390. Tu ci vuoi dire qualcosa su Raffaella? Direi che il mondo del trash è in lutto, più che il mondo del trash è in lutto, più che il mondo dello spettacolo. È stata ballata ieri al Forte Prenestino, sicuramente a un certo punto è arrivata più volte, non ne siamo sicuri perché le condizioni non ce l'hanno. Una festa pre-lutto ieri, quindi ha fatto una festa pre-lutto, sì, è stato un omaggio non organizzato, diciamo così, a monte, a priori sì. A priori l'abbiamo dovuto fare. Talento. Forse non ricordiamo se l'avremmo ballato o meno causa condizioni, sicuramente l'avremmo ballata, fisiche e biologiche del tempo, ma chi lo sa. Allora, ancora un altro po' di musica e torniamo con il secondo spettaculess. Nel frattempo 351-0913-390 per interagire con noi qui a Radio Pirata 38 in diretta dal Sesto Ponte e dagli DJ. Allora, ritorniamo in voce per andare a parlare del nostro secondo gossip di quest'oggi. Pippo Inzaghi, papà per la prima volta a 49 anni, Angela Robusti incinta, l'annuncio via social. Pippo Inzaghi diventerà papà per la prima volta a 48 anni. Io ce n'ho già tre e manco ci sono arrivato a 48 anni. Mi viene in mente una citazione, Pippo Inzaghi, chi era costui? Era, nel senso che prima giocava, ma non è morto ovviamente, era un calciatore famoso, insomma, ha giocato in differenti squadre, non mi chiedete quali perché a me il calcio fa praticamente cagare, però a parte i miei gusti sportivi, io penso che a 48 anni forse sia anche un po' troppo tardi, no? Pippo. Beh, Pippo, che devi. Ma lei Pippo. Quanti anni ha soprattutto? Lei non lo sappiamo, possiamo andare a vedere. Sa che ne avrà una ventina in meno. Vediamo, andiamola a cercare. Può darsi sicuramente, insomma, queste sono cose che succedono spesso. È il vecchio che si ripete. Però mi chiedo, ma perché tu ti attendi 48 anni prima dei fanfio? Cioè, tu che c'hai i soldi per fare due squadre di calcio a una certa, a 50 anni quando non c'è più forza per fare niente fai lì dei cazzini, vai, cioè, annoiava te. Forse si annoiava. Non gli hanno messo la televisione in camera, il ricco si annoia, non sa godere dell'ozium, ma e mo come, infatti è vero, poi non è che se lo crescono loro, se le cresceranno le varie babysitter, certo, che verranno assunte dalle bambinaie fino all'età adulta, in pratica. No, io perché ero preoccupato dei mal di schiena che poteva ricevere Pippo Inzaghi per andare a chinarsi per prendere il figlio, ragazzi, la figlia non lo farà lui, quindi Pippo Inzaghi non andrai dal fisioterapista e va bene anche così, insomma, una notizia che riempie i cuori. Era meglio Carneade. E dai. Yeah. Rieccoci qui, 18:53, lunedì 5 luglio 2021, Radio Pirata 38. Ci vengono a trovare dei ragazzi qui del quartiere che salutiamo a braccia aperte calorosamente, appena saliti qui a trovarci. Allora andiamo a continuare. Continuiamo. Di che cosa parliamo, carissimo mio? Guarda, è successa una cosa pare sconvolgente per il mondo dei social. Io non lo sapevo, me lo sono perso. Sarà forse che non ho Facebook. È morta Lilli. Lilli? Non chi è Lilli? Non Laika, Lilli. Lilli. E chi era? L'amatissima cagnolina di Michelle Hunziker. No. Me coglioni, disse la contessa. Il toccante addio sui social si è spenta da poche ore in Lilli, barboncina toy, color albicocca per Michelle Hunziker. Era come una figlia. E allora? Cioè aveva 11 anni, praticamente aveva il triplo degli anni di Michelle Hunziker per un cane. Beh, insomma, si è fatta la vita sulla Michelle, dai, insomma. Sicuramente avrà fatto una vita migliore di tante altre cagne e cagnolini che stanno in giro. Michelle, non essere triste che te puoi comprare un canile intero nella speranza che però le gabbie per i cani non ci siano, li lasciamo liberi e libere, sti canetti e ste canette, avrai un bel giardinetto, insomma, sicuramente avrai modo di toglierti questa tristezza in breve tempo, dai Michelle. Beh, diciamo che di cani in giro ce ne stanno, invece di comprarli potrebbe adattarne uno al canile. Corretto, meno. Grande appello, andate tutti ai canili a prendervi un bel canetto, una bella canetta, se li trovate per strada, soprattutto adesso che ci accingiamo, insomma, alle ferie estive. Soprattutto se beccate quegli infami che li abbandonano. Corretto, se li beccate sapete già quello che sapete, dovete fare. Sapete perfettamente, senza passare dal via. Senza passare dal via. Dai regà, e allora DJ, facci sentire un po' di musichetta, dai. Thank you. niente, srega, su ste note di sta traccia che mi piace veramente tanto, bisogna dire un qualcosa che non abbiamo finora ancora detto, ovvero un ringraziamento speciale al nostro DJ che qui da tanti lunedì è qui pazientemente a risolvere le problematiche tecniche, al nostro maestro, al nostro maestro che ci aiuta, ci insegna, ci accompagna, ci fa capire di questi lunedì estivi afosi, tutti agostani. Sì, ci sono tantissimi problemi, senza di lui non sapremo veramente come poter fare, saremo perduti, però vabbè, insomma, impareremo, no? Guardando anche tu come ci insegni a fare le cose. Allora, ancora 351-09-13-390, Radio Pirata 38, scriveteci, fateci sentire un attimino la vostra voce. Andiamo a riprendere anche un ultimo messaggio che ci è arrivato, mantenendo il tema di cui stavamo parlando prima, ovvero dei 2DP, che ci arriva un messaggio sempre da Vale che ci dice che l'ultimo che 2DP che lei ha dato, lo ha dato perché? Perché semplicemente prevedeva che avrebbe avuto accolli infiniti. E l'accollo, e questo è il problema, l'accollo infinito. Come dare torto? Come la dare vita torto? È fatta di accolli, come di piovono accolli, citando Zero Calcare, no? Corre. Nella vita piovono accolli, tu già c'hai i tuoi e devi schivare quelli che arrivano da tutte le parti che non sono manco i tuoi, quindi uno magari una volta vorrebbe fare una cosa tranquilla, come dice Shakespeare, un sogno di una notte di mezz'estate, no? Ecco, cioè niente, ovvero una nottata e via. Niente di più, no? Per usare le parole del vecchio William. Accontentiamci anche di quello, no? A volte. Il vecchio dire. Volpone, William. Comunque, l'importante è essere delle persone corrette, educate, e appunto, e non accollarsi. L'importante, no? È il consenso, questo. Beh, no, è la primissima cosa, però anche nel... No, nel manifestarsi, nel non essere invadenti, bene. La presa bene. Quindi comunque... anche il 2DP che una serata ci sta. Alla fine sta. Se uno era uscito per divertirsi, può succedere, anzi il più delle volte succede. Per 2DP lo possiamo anche testimoniare, dato ormai che abbiamo una certa età, non siamo proprio, siamo giovani. Se ricevono sempre i 2DP. Se a tutte le età. Vabbè, dipende anche dall'esperienza che ognuno fa. Però insomma, tanto rispetto per forza, perché se non ve vogliono, regà, non ve vogliono, e ci dovete stare, ve può bruciare tanto. Ma tocca ciacce. Ma niente, come si dice? Morto un papa. Se ne fa un altro, regà. E allora 351-09-13-390, Radio Pirata 38, da quelle del Sesto Ponte. Siamo arrivati alle 19.02, minuti primi, continueremo con un pochino di gossip. E allora, dai DJ. Allora, qua giustamente RDJ mi stava un po' correggendo, perché diceva che morto un papa se fa e rave. E perché se fa e rave morto perché un papa? Perché a rave può essere che ti puoi anche ripigliare dal 2 di picche che hai ricevuto prima. No, ma anche perché in realtà successe realmente anni fa, quando morì papa. Voitila. È una citazione reale. È una citazione reale, cioè nel morto senso. Morto il papa si fa morto il rave. Morto papa Voitila, noi non sapevamo che si accingeva a papa, lasciarci. Papa ultra ventennale che... ha occupato lo spazio pubblico di intere generazioni negli anni 90. Ecco, noi non sapevamo che si è esplosa la felicità, che si stava accingendo al trapasso. Noi stavamo lì in quel di pirateria sull'Ostiense a organizzare una bella festicciola con tanto di impianto bello pompato sulle strade, sulla strada dell'Ostiense. E intorno alle 9:30 di sera ci giunse questa magnifica notizia, e da lì la festa diventò molto un po' in città, molto più gioiosa. E quindi insomma, morto un papa se fa rave. C'è chi ci chiede come se siamo svegliati stamattina. Io sotto la doccia. Tu sotto la doccia, solo quando sei andato sotto la doccia sotto sei svegliato. Sotto la doccia mi sono svegliato. C'è chi dice che se siamo svegliati alzati, se siamo alzati come le serande, belli arrotolati. Arrotolati. Ed è una bellissima metafora questa, eh. Oppure c'è Pietro, ecco il bella Pietro, ci dice morto un papa pure basta. E anche siamo, sì, noi concordiamo, per questo diciamo il rave. E per quello famo rave pure basta. E tutte e due, così accontentiamo tutti. Dai regà. Pietro, questi suggerimenti sono veramente tanto apprezzati, bella per te. E infatti, a pensarci bene, a noi non ci bastava il papa polacco anticomunista che ci ha praticamente etero diretto per 20 anni e passa, ma adesso ce ne abbiamo addirittura due. Come se uno non te basta, ce ne avevamo due. Come si chiama Mo Benedetto? Il Papa Umbra, come si chiama? Beh, Papa Emerito. Emerito. Emerito, e lui sarà Papa Emerito finché non muore, quindi può morire Bergoglio, eleggeranno un altro papa e lui sarà ancora là. Mi domando una cosa, no? Ma i vestiti del papa? So per un papa solo. Quindi che fanno? Si scambiano tra Papa Francesco e Papa... No, no, ce l'hanno diversi. A parte che no, c'è sta lo stilista che ogni volta li ridisegna per ogni singolo papa, ma c'è un'altra cosa che io poi non sapevo, ho scoperto in questi anni di lavoro intenso, perché ci interessiamo di queste chicche, noi che lavoriamo negli eventi, no, queste robe qua, e abbiamo scoperto negli anni che praticamente c'è presente quando c'è il giubileo, no, che aprono la porta, sta porta poi la rimurano, certo. Dici come la rimuriamo la porta, caga cosa, caga cucchiara. La cucchiara ogni porta la rifanno e poi rimane. Ma è d'oro, tipo. È d'oro, è d'oro, chiaro, col manico forza d'avorio, ma viene usata una volta sola, per chiudere, certo, la porta per del giubileo la porta, e poi te ci risporti 5.000 euro di cucchiara ogni volta. Capito? Quella è una bella speculazione finanziaria per ricchi. Sto manico d'avorio. Quello ma dall'Africa. Ste elefanti, ma ste zanne, ma li vivono dall'Africa, li. Certo, li barattano, li barattano o mandano? Se, secondo me li barattano in cambio della conversione, perché quelli sono capaci di venderti il fumo per niente, quindi. Il fumo? Di che fumo stai a parlare? Non stavo a parlare del fumo buono, ma di quello cattivo, quindi. Tranne l'incenso. Hanno sempre l'incenso, il famoso incenso. Comunque c'è da dire, la cucchiara comunque sopra c'ha tutti i simboli aulici, perché comunque è una cucchiara santa, eh. C'è cioè, una cucchiara qualunque, chiaro, quella. Ci fai i muri di Cristo. Ci fai i muri di Cristo con qua roba. Grazie alla santa cucchiara che ci fa fare i muri di Cristo. E allora noi torniamo sulle note di faccelo sapere. Questo è Sam Paganini, la traccia si chiama Rave. Ah, proprio rimanimo un termine morto un papa se fa rave. In tema papalizio. E dai. nel frattempo ci arriva una richiesta. Ci dicono da WhatsApp che vogliono sentire Raffaella, giustamente il tema di oggi, la morte di Raffaella Carrà. È il tema nazionale a quanto pare. E quindi bisogna la morte del trash. Bisogna che ci si organizzi, quindi dateci qualche minuto, ci organizzeremo anche per voi, non vi preoccupate. Vogliamo altre richieste, però non ci bastano. Radio Pirata 38, scriveteci i messaggi per le tracce che volete ascoltare al 351 0913 390. Grazie, no, all'aiuto da casa. Dai. Dai che aperitivo, dai che se balla, senti che traccetta. Follow the sun. Thank you. Allora, torniamo un attimino in voce, continuiamo a parlare nel frattempo che non abbiamo ben capito cosa sia accaduto. Stavamo tentando di accontentare una richiesta musicale. Stiamo testando l'audio. Testiamo allora, nel frattempo. Testiamolo. Io vedevo lì delle foto con parrucconi, feste, ma che è qua roba? È una figata, leggi un po' il titolo. Alba Parietti in mega party a tema a Milano, ma per la morte di Raffaella Carrà. No, leggi. Per la foto dei 60 anni. Per i 60 anni. Ah, manco per... ma sarà sicuramente trasformata in una festa per la Carrà. Eh sì, si stava trasformando in una festa per la Carrà. In realtà è successo il 2 di luglio, non è successo oggi. Ah, ecco, allora, mi dite ste cose, io vedo solo parrucconi, mi viene in mente la festa trash di ieri, appunto, e poi non riesco più a pensare ad altro che questa è morta. Cioè, e no, anche no. La Spagna starei in lutto mo che ci penso. Che si dice in Spagna? Andiamo a vedere pure che si dice in Spagna. Intanto vi lasciamo sulle note della Raffaella Nazionale. Sì, allora dai, vi lasciamo sulle note di Raffaella Carrà, così andiamo ad accontentare una richiesta che ci è stata fatta qui sul WhatsApp di Radio Pirata 38 351 09 13 390. E allora ce l'ascoltiamo. A far l'amore comincia tu. Dagli e dove te picchi. Dai, Igor. Ah! andiamo. Allora, dopo questa richiesta ci siamo informati. Siamo andati un attimo a vedere cosa dicono i giornali spagnoli. Sì. Promotion nazionale, anche là. E quindi come si fa? Andiamo su Vanity Fair. Cioè, se che succede? Se i giornali spagnoli titolano anche loro commozione nazionale, ma allora come funziona con la nostra commozione nazionale? Cioè, la somma di due commozioni nazionali quanto fa? E quanti nazionali fa? Commozione nazionale al oppure fa come il matematico, la seconda, che meno per meno fa più e non ci pensiamo più. Allora vediamo. Le frontiere vanno subito abbattute, se no come si fa? Io mi domandavo, perché a leggere i giornali spagnoli pare che appunto la cosa sia successa in Spagna. Cioè, capito? Questa è la cosa. Cioè, se scorriamo, ci stavano dei titoli, a parte questo che dice mi un dia vacio, cioè non un giorno vuoto praticamente, no? Una vita piena. Che dal punto di vista della borghesia a me fa vomitare, perché sì, ha cercato di essere giovane fino a 78 anni e la poveretta non si sarà goduta neanche la vecchiaia. No, poverina, sarà stata sempre per a lavorare. Quello che ha fatto in gioventù, che è riconosciuta internazionalmente ed è quello che probabilmente rimarrà nel trash delle future generazioni, perché quello è il posto che merita quella cultura per capire cosa erano gli anni 80 e 90 del nostro paese, ma non solo a questo punto, perché c'è l'Europa, come disse Marx in un famoso opuscolo, l'Europa andava già organizzandosi al tempo dell'Ottocento. Però qui, diciamo che senza arrivare poi troppo indietro, questo articolo recita pure che rompiò barriere, è quello che stavo dicendo, cioè in gioventù nella sua carriera ha sicuramente rappresentato un'icona gay, pop, che ha in qualche modo cercato di combattere lo stereotipo che veniva dagli anni 60, 50, roba vecchia, ma che serviva a borghesia, perché c'erano stati gli 68, gli anni 70, non so, scordiamo, quindi è per questo che dico, vivrà nel trash, quindi a modo suo qualche tipo di forma di lascito di memoria l'ha lasciato. Eh sì, sicuramente. Poi la Razón titola "Commozione in Italia por la muerte". Credo, questi sono di destra, questi sono di destra, infatti. Hanno rosicato quella italiana col cazzo che lo diciamo. E poi il paese muore Raffaella Carrà, diva della televisione e della musica. È chiaro. Claro. E va bene, quindi niente, vogliamo continuare a dire qualche altro gossip? Ah no, aspetta, voglio dire una cosa però. Ah, eccolo là. Mi ricorda, perché qua dobbiamo rimanere anche in tema laurentino, e infatti tra poco andremo a parlare di alcune tematiche che riguardano strettamente questo quartiere, quindi rimanete sintonizzati. Prima di questo ci delizieremo ancora, però delle cronache borghesi. La cosa singolare, dato che dobbiamo rimanere nel quartiere, fu questa: che sulla Laurentina, altezza Terzo Ponte, fecero una scritta e fu, recitava così: "Aridateci alle manno". Qualche pazzerello o pazzerella decise di andare lì e scrivere puntini. "Quello non ce l'avemo, se volete veridamo Mike buongiorno", una cosa del genere, se non mi sbaglio. Esatto. E in tema di morti, insomma, in tema di salme, e in tema di quartiere. Io mi ricordo un'occupazione in cui girava una bara nei giorni in cui sparì la salma di Mike buongiorno, con su scritto "ce l'abbiamo noi e ce lo terremo". Ma si è trovata poi alla fine sta cosa? No, mi sa di no. Ancora una. Ma sicuramente. Abbiamo una notizia alle non flash. Hanno voluto pagare il riscatto e quindi non è mai stata ritrovata. Se non la è sono mai tenuta. Stata riconsegnata. Chiamateci al 351-091-3390 se sapete dove sta la salma di Mike buongiorno. Noi siamo a qui a 10 anni dalla scomparsa. Tutto secondo me, quando cavolo è morto quello? Fatecelo sapere, informateci su Radio Pirata 38. Sure. Allora ci arriva un bel messaggio qui sul WhatsApp di Radio Pirata 38. Il caro Pietro ci dice: con i due di picche ci potrei fare un mazzo di carte intero, però il modo migliore per reagire è prendersela bene e trascinarsi sotto cassa a ballare fingendo di non aver accusato il colpo. Pietro, qua scattano degli applausi perché per siamo lui. Tutti con applausi. Te. Bellissima questa parte propositiva. Siamo completamente d'accordo. È l'unica, ma soprattutto per stare bene con se stessi. La famosa presa a bene. La famosa presa a bene. Vivere la vita, come si dice. Eh sì, ma anche perché un viaje por la vita. Un viaje por la vita, come quello che stanno facendo adesso gli zapatisti e le zapatiste. E sicuramente serve tanto poi, no? Anche per lavorarci su queste cose. Per discutere di noi stesse, del piccolo quotidiano che prendiamo per scontato, e per affrontare i problemi come i due di picche, che poi in realtà sono non problemi. Certo, assolutamente, fa parte della vita. Fa parte della vita, anzi, saperli prendere farà sì che andrà sempre meglio. Sì, è come quando si cade, poi ti devi rialzare, no? Sì. Allora ci si rialza e si va, come dice Pietro, ma direi sotto anche cassa. Io mi spingerei a dire che ci sono anche dei due di picche che dopo che li hai ricevuti, poi dopo l'indomani a mente fredda dici: cazzo, meno male. Meno male. Spero, perché poi ciascuno e ciascuna di noi ha delle vite proprie. A volte uno non sa vedere al di là del proprio naso, e quindi magari l'altra sa vedere molto più di te, e quindi quel due di picche in realtà è un due di fiori. È stata una manna dal cielo. Non si è mandati la zappa sui piedi da sola. Comunque, Pietro, giusto per farti sapere, DJ, che tu vedo che ti stai accingendo anche al cambio traccia, ci dice: me la mettete un po' di Frenchcore con i bassi da paura? E allora adesso vediamo se prima, però andremo. Per questa richiesta avremo modo, perché in scaletta c'è Parigi, e quindi nel frattempo sapremo dove metterla. Ma chi spiazzare, rimanete in ascolto. È quella che ci piace noi. Però aspetta, informiamo tutte le persone che ci ascoltano che è giunta anche un'altra richiesta. Ce la vuoi dire tu qual è questa richiesta? Scusa, tu che sei girata alle rumore a rumore di Raffaellona. Torniamo per concludere questo ciclo sul trash, sulla morte del trash. Va bene, guardate, allora, sempre Radio Pirata 38, lunedì 5 luglio 2021, 19:32 minuti, 351-0913 390 per scriverci. Siamo qui ad attendervi e nel frattempo vi facciamo sentire un pochino di cavolate varie e altre, perché qua la traccia sta potremmo continuare. Saluti dal pianeta Terra, sistema solare, eccola, e allora ve la facciamo via ascoltare Lattea. Buon ascolto. Mi sento Allora, Radio Pirata 38, state ascoltando Rolling and Scratching. Ve l'ascoltate tutta, regà, perché questa è un traccione. Allora Gigi, bello mio, ci stai ascoltando in macchina da Ostia verso Roma. Gigi, noi amiamo te, anche se ci scrivi morte al trash. Io sono un po' anche d'accordo, in realtà, da un certo punto di vista. Però, vabbè, rispettiamo Raffaella e quindi lo famo ascoltare. Però, dai Gigi, te volevo una cifra bene, ti amiamo veramente tanto. We'll be right back. Allora, adesso cominciamo a parlare di un tema in realtà che nemmeno avevo avuto modo di preannunciare all'inizio della trasmissione, ma che logicamente dobbiamo affrontare. Perché? Perché questa è una radio che si trova nel Laurentino 38 al Sesto Ponte, e quindi ci piace insomma anche trattare dei temi relativi a quello che succede nel quartiere. Perché? Perché ci abbiamo sempre gli occhi ben aperti da un certo punto di vista, no? Siamo persone che lo vivono, chi più chi meno, per più tempo o meno tempo, chi parte va di su e di giù. Però diciamo che ci sono alcune cose che ultimamente stanno un po', ma non solo da ultimamente in realtà, no? Già un po' da un po' di tempo è una cosa che comunque provoca parecchio disagio. Stiamo parlando del tema, lo volevo chiamare come? La monnezza. Sì, il tema è assolutamente quello della monnezza. Questa settimana, infatti, in particolare ci ha colpito che le discussioni sui social, in particolare quelle proprio del quelle di questo quartiere qui, di questa zona, in particolare dei Ponti, vertevano tutte quante sull'immondizia, che in effetti è evidente anche qua se ci affacciamo dalla finestra, cioè non uno spettacolo di quelli che si presenta quando sono un po' di giorni che nessuno passa a pulire in nessun modo, cioè nel cassonetto né intorno. E quindi abbiamo un po' letto un po' tutte i post e i commenti che c'erano per farci un'idea su quali sono le tensioni qui nel quartiere. Poi appunto, conoscendo poi fra l'altro che questo tema, quello dell'immondizia nelle strade, è una delle forme con cui qui in questa città si fa fondamentalmente propaganda elettorale, abbiamo pure voluto sentire invece cosa dice le persone, che cosa dicono le persone semplici che incontriamo qua nella vita di tutti i giorni, che senza invece stare a sentire i politicanti che adesso ce ne diranno di cotte e di crude sulla loro visione sulla gestione dell'immondizia. Invece siamo andati a sentire un po', a tastare che cosa ne pensa la gente poi in area. Ok, quindi quello che è successo è stato questo, che abbiamo visto che nei cassonetti che ci stanno in ciascuno dei ponti l'immondizia è diventata veramente il triplo, anche magari rispetto a quella che c'era anche qualche solo giorno fa, che comunque non era poca. E quindi in maniera insomma anche attiva si è tentato di parlare con le persone del quartiere attraverso i social, pure per no, captare un po' i sentori e quello che si vive la gente. E quindi che cosa è uscito da questo scambio insomma del quartiere, tu che l'hai seguito maggiormente? Beh, le cose ne sono uscite diverse, perché poi ci stanno un sacco di teorie, ma secondo me quella è la parte poi interessante, no? Di capire come pure la gente che di norma non si occupa di questo, invece che idee gli vengono in mente per risolvere il problema, che a volte sono un po' bislacche, sono proprio tirate così a casaccio, invece poi qualcuno c'ha pure delle idee interessanti. E comunque so il ragionamento di tutta una serie di persone che ci hanno provato un attimo a capire questo problema, se si può risolvere, se si può risolvere, chi è che sta lì, che fa la monnezza, chi è che la sparge, perché poi iniziano a esserci tutte, no, una serie di storie intorno, che alcune sono proprio fantastiche. E fondamentalmente il problema poi che va per la maggiore, no, che te dici, vabbè, io, cioè, come la vedo io? Io vedo una cosa e ci ragiono sopra, no? Quindi vedo la monnezza e penso non è stata raccolta, ma questo è il ragionamento mio. Invece le altre persone fondamentalmente pensano che qualcuno la viene a buttare da un'altra parte. C'è, ecco, chi lo pensa, sì, anche sì, qui. No, no, anche qua c'è una fazione. Sì, forse sì, anche no, io un pochino lo penso. Ok, no, no, no, ma è probabilissimo. Infatti c'è la corrente che va per la maggiore, appunto, è questa che sostiene che ci siano dei buttatori o delle buttatrici di immondizia che vengano da altrove. E per questo poi, cioè, questo è il ragionamento che va per la maggiore. Di conseguenza a questo poi c'è l'altro ragionamento che va per la maggiore, che dice metteme le telecamere per vedere chi butta la monnezza. Sì. E questo poi, cioè, c'è pure spazio fra chi dice famoglielo fa lo Stato, a chi dice no, io ho già messe, a chi te inizia messo autogestito, una specie di autogestione. Cioè, inizia di tutta una serie di robe che te dici, vabbè, fondamentalmente speriamo che mo qua non va bevuta la gente a buffo perché è sbagliato a buttare la roba così a casaccio il giorno sbagliato sotto il cassonetto controllato da qualcuno. Però fondamentalmente pure questa già è una parte, poi ce ne sono tante altre, insomma questa era quella che ma immagino più. Ci sia pure chi dica magari, che ne so, nel quartiere non siamo abituati a comportarci in una determinata maniera, quindi siamo noi che già che lo viviamo magari che sbagliamo magari direttamente, quindi già noi stessi provochiamo questo. Chi ti dice che vengono da fuori, e alcune volte anche a me è sembrato, camminando qui per il quartiere, di vederle. Perché diciamo questo però? Perché c'è questa teoria, chiamiamola teoria? Perché comunque in effetti nei quartieri limitrofi il sistema di raccolta dei rifiuti è differente da quello che è presente qui ai Ponti del Laurentino 38. Per cui in mancanza di cassonetti una persona che magari deve buttare una cosa al volo perché non ha rispettato l'orario in cui avrebbe dovuto buttare quel sacco, si ritrova magari ad avere a casa una cosa puzzolente per 8 giorni, non ce la fa più, si sposta, trova un cassonetto e la butta. E questo a volte succede, oppure quello che ho visto io, moltissimi di questi rifiuti sono comunque rifiuti che sarebbero destinati in realtà all'isola ecologica. E non c'è purtroppo, da quello che penso io, almeno se ancora la fanno, una domenica al mese in un punto nel quartiere di raccolta, almeno questo era quello che succedeva allora, in cui le persone potevano andare, no, a buttare quei residui ingombranti o comunque speciali, chiamiamo così, da discarica, da isola ecologica, e questa cosa generalmente non viene fatta, e quindi purtroppo qui nei marciapiedi di fronte ai cassonetti in realtà c'è tutta una serie di calcinacci, frigoriferi e quant'altro. E infatti prima parlavamo anche del fatto che nel mercato che c'è qui tra il sesto e il settimo ponte, appena asfaltato, proprio perché c'è il mercato uno o due giorni a settimana se non sbaglio, ci dovesse essere insomma la giusta condizione per poter fare il mercato giornalmente, però tutta l'immondizia che stava lì ai lati insomma della parte anche di terriccio, erbe eccetera eccetera non è stata smaltita, c'è anche un frigorifero e quindi si parlava anche di questo, no? Sì. No, poi c'è pure questa cosa appunto che in quella zona c'era proprio scritto poi sui lavori che sono stati fatti qualche settimana fa, che avrebbero rifatto il manto stradale e che si sarebbero operati per ripulire le parti dei verdi adiacenti a dove si fa il mercato, no? In modo perché poi quella roba stava già là, non è che ce l'ha portata la gente che c'ha i banchi e fa il mercato. Assolutamente anche, no. Anche perché non gli ne torna niente di rovinasse il posto dove vanno a fare i banchi, quindi già era in quello stato. Poi dopo che hanno fatto sti lavori, cioè l'immondizia, cioè quelle cose lì abbandonate, perché poi chiamano l'immondizia, cioè relativo, c'è sta di tutto, e cioè se la potevano portare via ci stavano, hanno pure scritto non c'è parcheggiate qua perché stavamo a fare sta cosa, in realtà poi hanno fatta pure queste, cioè sono queste, quindi è come se abbiano destinato dei fondi per andare anche a ripulire tutta quell'area, cosa che magari è successo solo a livello, no, ufficiale, nel senso per scritto e con i soldi, con delle transazioni economiche avvenute, ma poi in realtà il dato di fatto è che tutta quella monnezza sta ancora là. Parlando di manto stradale, mesi fa, un paio di mesi fa se non sbaglio, rifecero parte del circuito qui dei ponti, però prendendo solamente, interessando solamente una delle due corsie di ciascuna delle due carreggiate, senza andare poi a completare l'opera, e soprattutto invece di fare la parte a destra sopra della quale passa l'autobus, tra virgolette anche autobus nuovi che dovrebbero essere anche magari un po' tutelati, hanno rifatto quella sulla sinistra, no? Quella di sorpasso, e quindi grande intelligenza, così le macchine sì possono correre, investire la gente anche se ci stanno sti dossi, però non hanno l'autobus si rompe, e quindi insomma questo è quanto. No, su questo pure che dire, cioè sì, negli ultimi mesi, per non dire pure negli ultimi anni in realtà, c'è tutta una serie di lavori che dovrebbero essere doverosi per la manutenzione del quartiere, di una zona abitata, non so poi come chiamarla, perché qui siamo abbastanza, poi magari per municipio non siamo abbastanza persi in quartiere, non lo so. Però per quanto riguarda gli interventi questi qua, che sono strutturali, de logistica fondamentalmente, degli abilità e pure delle aree verdi, perché il quartiere poi fondamentalmente non è che è fatto solo di cemento, è fatto pure di tanto verde, che basterebbe poi curarlo un minimo, perché sennò poi diventa il posto dove ci butti la qualunque. Cioè curarlo un minimo, tutta la zona ce ne guadagnerebbe un sacco, che te fra ogni a parte fra ponte e ponte, ma proprio fra ogni piazzetta, via, eccetera, c'è questo il sacco di verde che lo puoi usare, pestacce, stacce bene, e invece di averci tutte delle aree che parano abbandonate, i marciapiedi piene di fratte, che comunque è un attimo che un quartiere invece da valorizzare le sue ricchezze con poco. E poi io ripeto, se serve la mano d'opera, io penso che qui nel quartiere lo sai, la gente che c'ha bisogno di lavorare, negate, vi andare a cercare col lanternino chissà dove sui siti web, qui devi proprio andare strada per strada a chiedere a zio, oggi devo fare la giornata, cioè, poi ovviamente proponendogli delle soluzioni tutelate, non è che poi devo andare a finire che mi pare, cioè, che è una cosa losca, insomma, però cioè io non capisco dostanni i problemi a gestire sta roba che attraverso le istituzioni spesso fanno così tanti passaggi che la realizzazione non la vedi mai, e invece sarebbe buono in qualche modo riportarle invece a una gestione più, appunto, a un'autogestione, una cosa più diretta che te la puoi accollare direttamente e riusciresti a vivere pure più in modo più carina relazione nel quartiere. No, mi perdonerai se intervengo, io non sono del Laurentino, però conosco la realtà del terzo municipio del Tufello, da cui provengo, quindi mi veniva da pensare che effettivamente nell'ultimo periodo questo fenomeno di ammassamento di immondizia lungo le strade, anche di Città Giardino, che non è esattamente il Tufello, cioè il Tufello è un quartiere popolare residenziale che sta vivendo una gentrificazione, poi ci stanno Vigne Nuove, Talenti, che è un altro tipo di quartiere, cioè ci sono varie cose, come è un municipio di Roma, diciamo il Tufello è una cosa che si avvicina al Laurentino per capirci, e lì come a Città Giardino era pieno di immondizia. Fatte le primarie del PD, quell'immondizia è sparita. Questo è successo al terzo municipio, perché c'era una lotta all'interno del PD per queste primarie, e l'AMA, che è lottizzata dai partiti, principalmente il PD, veniva usata come arma attraverso, no, per far dire alla gente, ecco, vedete, c'è sta spazzatura per strada, è colpa dell'amministrazione attuale dei sinistri che vogliono bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Poi, dopodiché, una volta passate le primarie e si è capito chi aveva vinto, l'AMA è tornata a fare il suo lavoro, perché giustamente quello era il suo compito. Quindi io vi lancio uno spunto di un racconto di quello che è successo sicuramente il terzo municipio, quindi intanto capire se anche qua c'è dietro questa speculazione dell'immondizia, perché purtroppo abbiamo imparato dalle vicende campane degli anni passati che l'immondizia è un business, purtroppo, come il neoliberismo trasforma tutto in business, pure a monnezza, purtroppo, a danno nostro e del pianeta. E quindi intanto questo, e poi stavo prima chiacchierando, sentivo, io c'ero quando stavano rifacendo la strada con i compagni e le compagne, stavamo qui a Laurentino e ci domandavamo proprio, guardate se questi non rifanno solo una carreggiata, perché devono dire in campagna elettorale il 5 Stelle che comunque le strade loro le hanno rifatte ovunque, anche a San Basilio, a Corviale o a Laurentino 38. Poi hanno rifatto una carreggiata di sorpasso togliendo i tossi in modo tale che se uno deve correre non c'è problema, e quindi il SUV, la Porsche non te la spacchi, e voglio capire pure chi è che ci passa, perché cioè, chi è che ce l'ha ste macchine, perché giustamente a San Basilio un po' si sa chi ce l'ha quelle macchine, però vabbè, non apriamo adesso questo discorso. No, sempre per rimanere sulla parte del verde, noi ci abbiamo pure, non dimentichiamoci, una riserva naturale, no? Laurentino Acqua Acetosa, che sta qui, la famosa Marana per le persone che abitano qui il quartiere, che comunque è un posto totalmente abbandonato, nel senso che io mi trovo ogni tanto a percorrerlo col cane e ci sta solamente erba alta da tutte le parti, non curata, parti che sono andate a fuoco, parti di discarica nell'ingresso che arriva al quinto ponte, e quindi non è nemmeno un luogo che in realtà possa essere utilizzato, attraversato anche magari dalle famiglie, no? Io immagino come in tante altre aree di Roma ci possa essere una villa Ada, una villa Panfili o quant'altro, quindi luoghi in cui comunque le persone possano andare a fare una serie differenti di attività, e portando anche bambini, andando a fare un picnic, qua sta roba praticamente non è possibile. Quello che succede è che poi va a fuoco, come è successo l'altro anno, andando pure a incendiare tutta quanta la polisportiva del famoso Tonelli, che comunque ha fatto giocare ragazzini e ragazzine di questo quartiere da sempre. E quindi, insomma, che fare? Ce la gestiamo la cura di questi spazi? La lasciamo agli altri? Beh, lasciandola agli altri abbiamo visto che è rimasta sempre così la situazione. Magari possiamo tentare di fare qualcosa nel nostro piccolo, se ci va, a tutte e a tutti. E allora continuiamo, Radio Pirata 38, 19:56 minuti primi, questa lunga chiacchierata rispetto alle tematiche del quartiere. Vuoi aggiungere qualcos'altro? No, più o meno cioè abbiamo concluso quasi tutto il ragionamento, appunto pure sulla parte della Marana. Aggiungo solo una cosa che ho letto sempre su una delle riviste qua dei periodici de zona, di quelli che trovi al bar, che fondamentalmente appunto sulla questione del centro commerciale, no? Che in teoria doveva delle cose indietro al quartiere, perché ha svoltato 2/3 della cubatura dall'abbattimento dei ponti, no? Quelli che erano 9°/11°, mancava ancora quest'ultima tranche che si è magnata Massimo, e che indietro avrebbe dovuto ridare un minimo dei servizi. C'era una specie di contratto con i cittadini, una cosa del genere, su cui proprio c'è passata sopra col carro armato. Però così, per darci la mancetta, c'è praticamente da sti 2 milioni di euro al quartiere per farci qualcosa. E quindi poi chi sta provando in qualche modo a far sì che sti soldi vengano spesi per ste aree qua, cioè per gli spazi comuni, e che non vadano a finire in qualche impiccio poi del municipio, che chissà dove scompaiono nelle corsie, cioè nelle singole corsie delle strade rifatte, con questi progetti di urbanistica un po' campati per aria, mentre appunto c'è stava chi diceva spendemoli invece per il verde, perché per quanto può essere dispendioso, comunque è una cosa che ci resta, è una cosa di tutti e di tutte, ci viviamo e ci crescemo insieme, rendiamo il quartiere pure un polmone invece di essere soltanto una discarica. E questa è, ecco, l'ultima cosa che volevo aggiungere. No, l'ultima suggestione che mi veniva, così e chiudiamo questa parte, e fa riferimento anche a quello che verrà dopo, cioè faccio eco all'appello che si faceva prima sul prendere consapevolezza di che significa il ciclo dei rifiuti, e capire i rifiuti che produciamo che fine fanno e dove li buttiamo, perché è un problema molto complesso, quindi non c'è da fare la morale a nessuno, perché è complesso, e gli zapatisti, per dire, è un problema che risolvono in maniera un po' arcaica, con il fuoco, cioè gli danno fuoco. Poi allora, senza anticipare niente, quindi andiamo solamente a entrare nella parte del prossimo blocco, eh? Senza che anticipiamo, andiamo nello specifico. Era una suggestione rispetto alla spazzatura, no? Perché se ne occupano solo dall'altro, è chiaro che ci fanno il business. Poi abbiamo la terra dei fuochi, gli sversamenti nei mari e tutta quella roba là. Certo. Perché? Perché innanzitutto a noi non ce ne frega un cazzo, facciamo il sacchetto e lo buttiamo per strada. Quindi però il problema non può essere neanche che io mi accollo tutto il problema come se fosse solo mio, quindi il riciclo, la separazione, non è solo quello. È appunto prendere consapevolezza e poi partecipare ai processi decisionali, che a Roma vogliono dire l'AMA, sostenere le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici dell'AMA che si stanno battendo per queste, che sanno benissimo queste cose, quindi sostenere, molti dei quali ultimamente anche sono stati aggrediti. I zapatisti non ce l'hanno ancora quel problema, e quindi la bruciano la spazzatura, ma noi non possiamo bruciarla perché non siamo nella selva, non abbiamo tutto quel anche verde, perché quello è un tipo di abbiamo appena detto che il nostro verde lo dobbiamo tutelare, certo. Quindi dobbiamo trovare il modo di far sì che sia una cosa di virtuosa. Correct. E non una speculazione finanziaria in mano alle mafie e ai soliti noti. Allora, sono arrivate le 20, sempre Radio Pirata 38 351 09 13 390, se ci volete scrivere qui in diretta. Dopo questo interessantissimo blocco di parlato, andiamo, grazie alla nostra Lady DJ, a lietarvi con un altro po' di musica. Dagli regà. That job will get you the cash. Who said that loan will save your ass? Who said money covers all the expenses? Who said love will save the kids? Who says forever is not divorce? Who says your dream will get you a Porsche? Who says that life is not bad? Who said head wearing brands is having style. Who said that original is not fake? Who said that those pills will get you high? Who said that drugs will make you smile? Who said that gas will get me the miles? La la la. E allora 20.09 Radio Pirata 38 351 09 13 390, ci accingiamo ad affrontare quest'ultimo blocco che ci accompagnerà e vi accompagnerà fino alle 21 di quest'oggi, lunedì 5 luglio 2021, e andremo a parlare quindi della gira zapatista, andremo a dare un pochino di aggiornamenti, andremo ad analizzare anche un contributo che ci giunge, insomma, degli spunti di riflessione, spunti di riflessione che vorremmo condividere con il pubblico, e vorremmo magari, no, anche sapere quello che pensate, un attimino, e anche per fare un po' propri, no? Esatto. Ma anche per uscire fuori dalla retorica, dalla narrazione che comunque è verso il passato, che ha una certa, ci ha scassato pure collera, come dicono a Napoli. Ok, allora ci prendiamo un altro minutino, un po' di secondi musicali, finiamo un paio di cose, e quindi iscriveteci ed ascoltateci 351 09 13 390. Dai, DJ. Eccoci qua, sempre Radio Pirata, 20:12, e cominciamo a parlare del tema che ormai stiamo affrontando da ben tre lunedì. Aggiornamenti sulla abbiamo gira fatto, zapatista. Abbiamo vissuto gli sbarchi in diretta, abbiamo avuto le corrispondenze da Vigo, e adesso la prossima tappa sarà a Parigi. Parigi. Ricordiamo un attimo, faccio un inciso. Ci arriviamo. Sono allora arrivati, dove, quando e che è successo? La settimana scorsa erano a Vigo, sono stati ricevuti in Galizia. Lo squadrone, ricordiamo, le squadron 421, composto da 4 donne, 2 uomini e 1 troa, Mario José, e dopo aver ribattezzato l'Europa terra insumisa, cioè terra indomita, hanno finito, diciamo, la loro prima parte, quindi l'arrivo appunto via mare del primo pezzo dei molteplici viaggi che le zapatiste e gli zapatisti faranno in questi mesi fino al prossimo anno, e adesso quindi la prossima tappa è Parigi. Ora noi non sappiamo ancora quando arrivano, però il fatto già che Parigi verranno in qualche modo paracadutati, come dice il subcomandante Galeano, nel caso verranno paracadutati come in un nuovo D-Day, in un nuovo novello sbarco in Normandia, gli zapatisti e le zapatiste verranno paracadutati sul cielo di Parigi, per sempre, ricordiamolo, per l'invasione pacifica del continente europeo. Beh, intanto su questo già c'è una cosa su cui noi possiamo ragionare, che già circola come domanda: perché Parigi? È perché al centro, semplicemente per dei motivi prettamente geografici e quindi anche meramente organizzativi, che Parigi è un po' al centro dell'Europa, certo, e che quindi da lì è più facile insomma gestire, oppure, e io in qualche modo vengo più stimolato dal secondo punto, oppure sia un punto politico, cioè un punto di critica all'Europa dall'alto, che oggi l'Europa, quella l'Unione Europea per come la conosciamo noi, è fondata sostanzialmente sull'asse dell'alleanza franco-prussiana, mi verrebbe da dire, cioè franco-tedesco, franco-tedesco ops, franco, cioè tra la l'accordo economico-militare tra la Germania e la Francia, cioè. E sull'Europa si basa su questo, noi siamo i vassalli di questa roba, quindi non è l'Europa che stiamo immaginando noi, e quindi secondo me gli zapatisti in qualche modo scelgono Parigi anche, e non scelgono Madrid o Bruxelles o Berlino o Londra o Roma, perché secondo me la contraddizione lì è molto forte, perché ricordiamolo, mo sarà stata la pandemia, quindi ci siamo un po' scordati, a memoria sappiamo che è un po' fallace quella a breve termine, ma quella a lungo termine no, cioè prima della pandemia in Francia era presente un movimento che per più di un anno ogni sabato è sceso in piazza in tutte le strade di Francia mettendo a ferro e fuoco, protestando contro le politiche neoliberiste francesi, i gilet gialli, e quel movimento non è sparito, quindi intanto Parigi quindi probabilmente ha dei significati politici. Poi io non escludo anche che ci sia la parte, diciamo, prettamente geografica, ma questo intanto è un primo punto da prendere secondo me in considerazione, quindi sarà importante starci per vedere come i compagni e le compagne che saranno lì, quindi come abbiamo visto i compagni e le compagne di Vigo, come si organizzeranno i compagni e le compagne di Parigi. Quindi immagino che le compagne e compagni di Parigi avranno organizzato un'accoglienza, però, sicuramente, e quindi verranno catapultati e paracadutati i compagni e le compagne zapatiste ricordiamo dello squadrone aereo, ma lo squadrone marittimo? Allora no, lasciamo stare per un attimo lo squadrone marittimo. Lo squadrone marittimo ha seguito una strada, ci sono state delle tappe nella penisola iberica, ci saranno altre tappe, ma non è questo lo squadrone marittimo ha intanto esaurito il suo compito per ora. Il prossimo punto è appunto l'invasione di Day a Parigi, se vogliamo. Però da questo, a parte guardare la narrazione dall'alto, noi possiamo trattare appunto. Ricordiamoci, possiamo dire intanto, tu mi chiedi come si organizzeranno i compagni e le compagne francesi, non lo so, però sicuramente il 14 luglio ricorre l'anniversario della presa della Bastiglia, quindi di materiale, diciamo così, rivoluzionario da poter agire, agitare per in concomitanza anche dell'arrivo delle delegazioni ci sta, e io immagino che non dobbiamo andargliela a suggerire noi a loro, ma sarà divertente vederli all'opera, secondo me ci stupiranno piacevolmente, ci daranno anche un po' di linfa vitale, io credo, perché la Francia dal basso è molto meglio di quella dall'alto, che fa schifo. E quindi intanto questo, Parigi, presa da Bastiglia, 14 luglio, e l'arrivo della delegazione aerea, questa già è una prospettiva, e dobbiamo capire appunto, è un dibattito, io ho dato adesso una mia opinione su, però è adesso che si entra nel vivo della cosa. Ok, perfetto, allora, presa della Bastiglia, zapatisti, andiamo a vedere maestro, quello che succederà. Facci sentire questi 18, cannoni. 20 e 18 minuti primi, Radio Pirata 38 351 0913 390. Andiamo a finire questo blocco parlato e andiamo a sentirci un pochino di musichetta. and Joe McConnell. Allora, 20 e 25, sempre Radio Pirata 38 351 09 13 390. La traccia di prima gliel'avevamo dedicata a Pietro perché ce l'aveva richiesta, e quindi in sincerità non ci siamo proprio sentiti di non accontentarlo. E infatti sto sentendo, mo ribalto il tavolo del bar e mi metto al sonpa. Vorremmo sta tutti e tutte con te a fare la stessa cosa, Pietro. Dai, un grande abbraccio. Allora, stavamo parlando in realtà però della gira zapatista, abbiamo dato un po' di aggiornamenti, siamo rimasti a Parigi alla presa della Bastiglia, però anche meno. Rimaniamo un pochino più attuali, no, e contestualizziamo. La cosa interessante è questa: sicuramente al di là di quello che, delle informazioni che non sappiamo, quello che sappiamo è che ci sarà una festa di benvenuto quando avverrà questo arrivo, e sarà interessante vedere come ci si preparerà a effettuare quella che è una festa, una cosa apparentemente banale ma in realtà molto complicata. E quest'oggi è uscito un documento redatto dalla Commissione di Genere Europea della Gira Zapatista, che riunisce femministe, soggetti LGBTQ, i trans, queer e via dicendo, troa come dicono gli zapatisti, quello diciamo il manifesto di responsabilità per vivere il cammino dell'autocura collettivi, che vuole essere una guida per accompagnare la Gira Zapatista per la vita un po' prima, durante e magari anche dopo l'arrivo delle delegazioni zapatiste nelle nostre città. Ora non abbiamo il tempo di leggerlo tutto, perché sarebbe anche interessante, perché si fa riferimento ai principi generali che sostanzialmente mirano al rispetto delle differenze, e quindi parte non da un concetto di unici, già questa è una cosa differente, no? Cioè i principi generali di base che noi immaginiamo debbano essere principi unificanti, no? Quindi quei principi uguali per tutti, ecco, sostanzialmente sono il rispetto delle differenze, se così possiamo dire, quindi già questo sarebbe rivoluzionario. Questo però per dire, per arrivare in realtà a quando, a proposito di alcol e le sostanze, questo è il tema che io volevo introdurre al dibattito in realtà, perché faccio un piccolo inciso. Cosa succede nelle comunità zapatiste? Nel 1994, vi ricorderete, quando si sono sollevati in armi, una delle prime leggi che le donne zapatiste imposero alle comunità fu vietare l'uso dell'alcol. L'alcol, che cos'era l'alcol lì? Facciamo un piccolo inciso velocissimo. L'alcol era una piaga sociale che distruggeva interi villaggi in cui gli uomini che hanno un comportamento patriarcale dovuto alla gerarchia della Chiesa Cattolica hanno devastato e violentato intere, appunto, popolazioni di donne e figli anche. Quindi questa fu la prima legge e a tutt'oggi è vietato bere e consumare alcol all'interno delle comunità zapatiste. Spieghiamone anche il perché. Io e te ci siamo trovati a vivere questa esperienza a Capodanno. Sì, per questo motivo che ho appena detto, perché era una piaga sociale. 2007, e io posso, io ho visto la differenza tra un villaggio zapatista e un villaggio non zapatista, perché ci forammo due volte la gomma e rimanemmo incastrati in un villaggio. Alle 6 del pomeriggio c'erano tutti gli uomini che c'erano tutti gli uomini del villaggio che ci avevano circondato, non c'era una donna, e sostanzialmente tutti cercavano di fregarci, ci offrivano aiuto per fregarci i soldi, quindi non ci potevamo fidare neanche di nessuno. C'era proprio, si respirava anche un brutto clima, perché gli sguardi non erano di sguardi incuriositi come quelli che ho visto nelle comunità zapatiste, cioè piene di vitalità, che volevano sapere chi eri, quei bambini che ridevano lì, erano tutti adulti vecchi, più o meno mezzi ubriachi, appunto, pronti a fare rissa, come si dice, con quelle modalità da provincia che conosciamo in alcune nostre province italiane e non solo. E quindi fu questo il motivo per cui venne bandito l'alcol, e quindi questo effetto lì si vede. Ora, e anche l'uso delle droghe, però per un altro motivo, e cioè che poteva essere utilizzato come scusa dal governo per imboccare all'interno delle comunità con la scusa del narcotraffico, e quindi c'è una lieve differenza. Cioè, mentre l'alcol era veramente una piaga sociale, la sua messa al bando è una scelta radicale di vita, di modalità anche di divertimento con cui loro fanno le feste, la messa al bando, parliamo di droghe, cioè della cannabis e dei suoi derivati, quindi di quelle cosiddette droghe leggere, quindi non parliamo delle altre, parliamo solo delle droghe leggere. Le droghe leggere non sono criminalizzate all'interno, non hanno questa non hanno questo impatto sociale negativo come c'era l'alcol, però c'è un problema del governo che può essere usata come scusa per distruggere le comunità con la scusa del narcotraffico. Corretto, quindi, ma poi ci sono due punti da dire, secondo me, da aggiungere, scusa se mi permetto. Uno è il non utilizzo dell'alcol, perché generalmente l'uomo magari ubriaco, poi tornando a casa all'interno, no, della famiglia, del nucleo familiare, magari poteva avere dei comportamenti molesti nei confronti della donna, e quindi si è scelto, no, di andare proprio a estirpare alla radice la problematica per andare a tutelare tutta una serie di circostanze. E poi il discorso anche delle droghe in generale, perché comunque non dimentichiamoci che quello è un territorio, per usare proprio le parole del comunicato, la riflessione sulla limitazione dell'uso dell'alcol è un'arma specifica di ogni lotta del territorio, perché è un'arma antipatriarcale, perché è vero purtroppo che sono gli uomini che utilizzano, abusano, e al di là quindi poi del motivo zapatista, quello che ci si interroga è su noi stessi. Cioè, quando noi accoglieremo le carovane zapatiste, che tipo di feste immaginiamo? Immaginiamo delle feste, perdonate il termine, proibizioniste, dove non si usa niente, bla bla bla, oppure vogliamo lasciare che ognuno faccia quello che vuole, con rischio di vedere scene che purtroppo negli anni abbiamo dovuto assistere in vari posti, anche cosiddetti liberati, dove le stesse persone che dovevano tutelare il posto hanno reagito in maniera violenta e via dicendo. Quindi, o quando si perpetrano violenze di genere anche all'interno del movimento, cioè, quindi è da lì che io partirei questa, cioè vorrei far, diciamo così, riflettere ci ascolta sul fatto, non degli zapatisti, i zapatisti hanno il loro motivo storico e ho anche fatto delle differenze su quanto riguarda la marijuana, che è diversa ancora. E poi quella, stiamo a dire, quella è una pianta dell'uso maya, ci sono delle iscrizioni maya che la usano, quindi fa parte della loro cultura, loro non la possono usare perché è giustamente usata come scusa, quindi ci sono delle differenze. L'alcol invece investe proprio il piano sociale di come ci organizziamo, quindi è giusto abusarne. Una volta si diceva il consumo critico delle sostanze, no? Certo. Quindi forse Forse a 20 anni da Genova, quello è un discorso abuso che dovremmo comunque riprendere anche in chiave, grazie al movimento Non Di Meno, anche in chiave femminista, come direbbero, intersezionale. E quindi comunque la cosa bella è questa, dal mio punto di vista, che qua possiamo comunque, no, prendere questo spunto di riflessione, esatto, anche dagli zapatisti e dalle zapatiste, di come loro all'interno dei loro territori e della loro cultura affrontano questa tematica e hanno trovato magari delle loro soluzioni, e magari rivedere e rivisitare anche all'interno dei nostri spazi, all'interno della nostra cultura, come è un in modo caso per riflettere sui nostri comportamenti. Oggi parlavo del due di picche, e quindi anche quello fa parte di questo, perché se tu ricevi un due di picche quando sei alterato e non ti sai gestire, è un problema. Corretto, sicuramente sì. E allora, 20 e 33 minuti, lunedì 5 luglio 2021, Radio Pirata 38. Se volete, ci potete contattare al 351-09-13390 e andiamo con un'altra parte di blocco musicale. Ritorniamo tra poco. We'll be right back. ben jij vriend, mijn maat. Ben ik in het veld, dan ben ik met jou. Dan ben ik met jou, mijn vriend, mijn maat. Mijn hooligan, mijn gabba, dan ben jij vriend, mijn maat. Ben ik in het veld, dan ben ik met jou. Dan ben ik met jou, mijn vriend, mijn maat. Je bent mijn gabba tot de dood. Allora, torniamo un attimino in voce, perché a noi in voce piace anche divertirci un pochino, no? A proposito di feste, vi abbiamo voluto mandare un pochino di traccette divertenti al nostro che punto di vista. Che non si dica che non siamo schierati. No, no, e poi non che sappiamo. Non siamo di parte. No, no, noi per niente non sappiamo se siano le stesse vostre note gradite. Esatto. Una sinfonia di Beethoven. L'inno alla gioia. Allora, eravamo rimasti allo spunto di riflessione. Allo spunto di riflessione, tema zapatista. Ci avviamo alla fine, alla conclusione del nostro orario, però possiamo lasciarci innanzitutto con gli appuntamenti, perché questa settimana, mercoledì a Parco Schuster, ci sarà un'assemblea cittadina alle 19, per chi non lo sapesse, vicino alla Basilica di San Paolo fuori le mura, a Roma Sud, e lì ci sarà modo di parlare un attimino appunto di quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato, dell'organizzazione delle prossime tappe, soprattutto di costruzione effettiva. Ci sarà probabilmente da fare un villaggio di accoglienza, il comparto, il consienza, il festival, sentire artisti, scienziati, musicisti, cioè c'è da costruire, c'è tutto, c'è tanta roba, insomma. Esatto, come ha detto il suo comandante, adesso siamo arrivati, ma adesso è tutto da fare in realtà. Cioè adesso inizia veramente la cosa difficile, quindi da quando arriveranno a quando dovranno andare a visitare i vari paesi, noi avremo il dovere di curarci di loro per la loro interezza del viaggio, così come accade a noi quando andiamo giù da loro. Quindi ricordiamo mercoledì alle 19 Parco Schuster, Assemblea Cittadina, e la pagina Facebook della Paz Roma e la Paz Italia per seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla carovana dal punto di vista della penisola italica a questo punto, perché a me di chiamarla Italia non, a questo punto non potremmo anche decidere qui tra di noi che quel termine non significa più niente. C'è un termine geografico che è la penisola italica e poi ci sono le realtà politiche dell'Italia, quindi c'è sta Roma, Milano, Genova, Bologna, Napoli, Torino, Siracusa, Palermo, Bari e via dicendo. Mi sono scordato sicuramente Campobasso e L'Aquila, per non parlare di Ancona, bla bla bla, però va. Comunque, a parte questo, vi invitiamo anche a visitare la Gira Zapatista 2021 italia.noblogs.org, in cui comunque potete trovare una serie di articoli, dove potrete trovare anche il documento che abbiamo letto prima. Ve lo potete leggere per la sua interezza, che è molto più ampio dell'argomento specifico, che è solamente un spunto di riflessione, e si potrà anche contribuire al crowdfunding per sostenere proprio la Gira Zapatista. Quindi insomma invitiamo tutti e tutte a recarsi su questo sito, ma non solo per lasciare un contributo economico, ma anche per interessarsi rispetto a quelle che saranno le prossime tappe e tutta una serie di articoli che comunque sono stati scritti in questi mesi, esatto, queste settimane, sì. E informarsi nelle prossime più. Si moltiplicheranno, quindi. Corretto, e soprattutto quindi Danet, come dal momento che 2001 a Genova, corretto, e quindi state connessi. Questo è un momento veramente storico che invitiamo tutte e tutti coloro i quali non hanno avuto modo magari di attraversare su Genova. Ci torneremo, ma su Genova poi ne parleremo la prossima puntata. Si avvicina il ventennale, ovviamente un ventennale contraddittorio dall'alto, col nostro compito sarà costruirlo dal basso e a sinistra. Corretto, quindi allora rimanete ancora sintonizzati e sintonizzate su Radio Pirata 38, aggiornate sugli sviluppi della Gira Zapatista. Andiamo un attimo in musica. 351-0913-390 Radio Pirata 38. Siamo qui. e sulle note della Filarmonica di Parigi ci accingiamo alla fine di questa trasmissione di lunedì 5 luglio 2021 di Radio Pirata 38. Lunedì intenso, molto molto intenso, come le note di questa canzone, esattamente, che ci portano in alto ma ci fanno dare un quadro d'insieme, no? Come una palla di cannone su un campo di battaglia. Sì, serve anche un pochino di romanticismo a colmare le nostre vite. A ognuno le proprie emozioni. Certo, noi infatti ci stiamo proprio un pochino domandando wow, sì, che stiamo ascoltando. E allora niente, Radio Pirata 38, 20:52. Ci aggiorneremo sicuramente la prossima settimana da Parigi. Sicuramente sì. Rimandiamo l'appuntamento al prossimo lunedì. Da Parigi a Laurentino è tutta un'unica lotta. Sicuramente, sicuramente. Prossimo lunedì dalle 18 alle 19, sempre sullo stesso link, connessi e connesse su Radio Pirata 38. Dalle 18 alle 19, alle 21, scusate, che cosa ho detto? Dalle 18 alle 19? Dalle 18 alle 21. Dalle 18 alle 21. Dalle 18 alle 19, alcune cose, poi anche altre. Poi altre. Va benissimo, allora vi lasciamo sulle note di questo magnifico brano. Mi permetto di fare un saluto ai miei figli, Leila, Edren e Jordan. Aie forte, tizi.